A volte siamo ciechi e non vediamo le dissonanze che dentro ci portiamo. A volte non capiamo perché non vogliamo vedere in faccia la realtà in cui ci troviamo. No, non mi pento di averti aperto gli occhi, amico, non mi pento neanche un momento. No, non mi pento. Gli amici veri ti aiutano anche quando sei nel fango. Ma dov'è finita la tua gioia, la tua vita? Quanti treni hai perso, quanti cani ti hanno morso? Non sei ancora stanco di bruciare gli aquiloni, di perdere il contatto con i tuoi sogni migliori? No, non mi pento di averti aperto gli occhi, amico, neanche un momento. No, non mi pento. Gli amici veri ti aiutano anche quando sei nel fango. A volte siamo tristi senza averne una ragione. Crediamo che la nostra vita è uno squallido squallore. Vorremmo nascondere al mondo tutti i nostri insuccessi, ma le persone che ti amano, amico, hanno altri parametri fissi. No, non mi pento di averti aperto gli occhi, amico, non mi pento neanche un momento. No, non mi pento. Gli amici veri ti aiutano anche quando sei nel fango. Ma dov'è finita la tua gioia, la tua vita? Quanti treni hai perso, quanti cani ti hanno morso? Sei ancora stanco di bruciare gli aquiloni, di perdere il contatto con i tuoi sogni migliori? No, non mi pento di averti aperto gli occhi, amico, neanche un momento. No, non mi pento. Gli amici veri ti aiutano anche quando sei nel fango.